Giù. E beh, tu, come va? Tu. Ma tanto bene. Stavo cercando di eliminare il problema del fuscito alimentato, poi. L'altro, è entrato nel fischio, che c'è questo, no. Adesso mi avete detto una scatola. Capito. E mia, si sente? La ventolina? No, non si sente. Qui c'è un istante, mi l'ha detto. E dall'altra parte del baracchino. Non lo sento, grazie a volte. Per dentro la scatola, ma lo sento lo stesso. Poco, ma lo sento. Adesso di meno. C'è molto di meno. 2, 3, 4, 5, 6. È molto di meno. Eia. Adesso va bene. No, ho capito come vedo il fischietto. Un 40 ampere. È diventato di cinese, spero. E vabbè, già, ne piglio l'altro uguale. Col pezzo che ho riposto, gli do quel pennello io mi tengo l'altro. Come difettoso, così non fa un cazzo. No. A cazzo, fai così, prendi il cave, ma prendi il cave e ce lo metti in fondo, cioè ce lo metti un po' distante, ma lei non si sente più. È distante, in terra dentro uno scatolone metallo, hai capito? Quindi vabbè, per forza stasera, se ce l'ho, anzi domani se ce la faccio sistemo l'altro. E poi lo tengo per quante linee, se la bianco, non lo fa giù in chiave, cazzo, questo è il cazzo di questo. Comunque è migliorato quando è cambiato il capo. E beh, te lo dico che è cambiato. Ho messo anche la multibanda, ho messo soprattutto la VU, adesso funziona bene, è perfetta. Ah, te ne hai avanzato, Antone? Non ho capito. Quel capo l'hai messo? Nello G213. Sì, ma è provvisorio, non l'ho ancora messo dentro al buco del muro. Hai capito? Sto usando delle G58 per la VHS, hai capito? Me lo fai sapere, se te ne avanza me lo dai. Te l'ho detto, se non me lo piazzo qua va molto meglio. Cambia la giornata, la notte cambia. Mi hai detto che ne vuoi 15 metri, non c'è. Già ci sono 15 metri, anche di più. Io te li do, non è quello il problema, ci mancherebbe. Se te ne avanzano, non c'è problema. Se non te ne fai nulla, me lo piazzo. Se ti ho detto che te lo voto, però una promessa è una promessa, lo sai. Capito? Devo misurarlo, scendere giù in garage, misurarlo con il cronometro, te lo misuro 15 metri e sei a posto. Bene, adesso ce la fai, ti do pure il messaggio, arriva a me, tanto me. Ti do il PL, già non so che deve essere saldare. Ti do il PL, me lo piace, non faccio altro che togliere questo e metterci questo, quello lì. Perché guadagna anche molto ricezione poi. Perché infatti in queste antenne è consigliato l'RG8, quello grosso, e questo 213 è uguale, non c'è, non cambia niente. Non so che ti ho deciso, non a me, ma sei sicuro di avere che servono 15 metri o che ne servono 20? No, 15 metri vanno bene. Va bene, ok. Mi hanno scelto in garage e te lo messo, perché farlo in casa è un casino. Se lo metto in terra a misurare magari esce fuori, si muove, c'è stampa sopra, c'è scritta che si fa l'altro occhionello, quindi ce lo dovete mettere nel garage, lo stendo tutto in terra e prendo una misura. Pasco, ma non è che se piazzo quello va fuori la simmetria, no? O va anche meglio forse come stazionaria? Non deve sapere nessun problema, non cambia nulla. Uno è 50, l'altro è 52, sono due numeri di differenza, non è che sia questo che va a. Io dal 58 al 18 ho cambiato totalmente, già l'avevo fatto. Tutta un'altra cosa, esce molto meglio. Cosa hai fatto tu? Ho tolto le VG 58, ci ho messo le VG 8, o come lo vuoi chiamare, 213, quello che è. Hai capito? La verità esce molto meglio, perché con le VG 58 era vecchio come modello, ho capito? E quindi il PL era oscillato e cosa del genere, l'ho cambiato e l'ho messo all'antenna VHF, l'ho messo provviso di adesso per provarla. Esce bene lo stesso, però hai capito, se passate direttamente da Rigi 213 della BGNQ, così tolgo la direttiva, lasciando giù, capito, perché è pesante per la... C'è la manto, la direttiva sotto, il cazzo sta raschiando, ogni volta che fa vento la schiena è muta, hai capito? Quindi faccio il lavoro come si deve, e almeno sono più tranquillo. Io ho comprato la staffetta per metterci i tiranti, nel palo, adesso appena fa una bella giornata come si deve, eccetera, eccetera, viene il vicino a darmi una mano, smonta la moto, perché ci vogliono due persone, non è che la smonti così la moto. Qua c'è sempre il vento, diciamo, sei anche tu, tipo il manco finale. Quindi, cioè, neanche lo faccio in due, no? La prima devo comprarmi il palo, che mi interessa comprarmi il palo nuovo. E lui per mettere il palo vecchio, hai capito? Ed è il cavo nuovo, sarebbe inutile la cosa. Va bene, va. Sto convinto che esce molto più forte con quello là. Lui, a paragone. Ma sai che, ma lo, io una giorno ho fatto una prova con un pezzo, lo sai che lo smetterà anche meglio l'antenna. Beh, logico che lo smetterà meglio. Tutta un'altra cosa, Scappa. Perché anche i watt li distribuisce meglio, secondo me. Ti dà anche più watt, meno perdita, puoi pompare tranquillamente con le lineare. Io ho fatto la cazzata con la Bottavini e provare le lineare, con la legge 58 vecchio e gli spezzoni un peggio dell'altro e ho bruciato le lineare, con un'imbecilla, capito? Quindi, e poi come ha fottuto adesso, ci ha messo le leggi 213, a me la posso tranquillamente pompare come una volta, perché prima c'avevo la calata delle leggi 213 io, quando usavo il BV 2001, capito? Poi avevo staccato l'antenna perché l'avevo fatta staccare, allora poi l'ho rimessa, ci ho messo le leggi 58 e il cavo che c'avevo io l'ho venduto. Quasi tutto ho venduto, erano più di 120 metri, figurati. Mi ricompro il vulcanizzante, mi ricompro il vulcanizzante per due raffuni, c'è una cosa un po' più, sono convinto che col 213, cazzo, un po' forte anche. Ha voglia, che pompa, la pasta non mi ricordo, lo senti. Adesso se c'hai, quello ti posso dire, leggi 213 da buttare, non fai altro che stallarlo, poi di tutto il rame, poi te lo vedi e ti fai un bel po' di su che ti fai, a chilo, capito? Anche tutti i capi in rame, fini, grossi, bobine, quello che è, smaltate. Lo so. Un giorno abbiamo fatto l'esperimento, abbiamo modificato una magnetica e abbiamo messo il capo grosso, cazzo quanto pompava. Beh, noi ci vuole pompa, cazzo, ci mancherebbe. È tutta un'altra cosa, senza il capo grosso e la capo fine. Figurati. Cazzo, avevo fatto la prompe di anni fa, sorso. Dici che arriviamo a forse, più di 9.20, con un assidio di ghisi da macchina. Ci ho fatto il 2001, già lo sai. Era stato l'amico. E quindi... E poi non lo stai neanche usando. Se no, avrei dato il barattino due volte, non di più. C'è paura, solo gli scarica la, pensa che gli scarica la batteria e va a tirare la macchina. Cosa? Che non sta usando il barattino, perché pensa che gli scarichi la batteria e il barattino, capito? È convinto di quello, succhia un bel e gli manda la batteria a zero. Lui, magari è una stessa persona. Perché lui c'ha anche lanciato il televisorino, capito? Fa il vigilante, quindi ci accende il televisore in macchina, si guarda il televisore in macchina. Quindi il barattino e quindi ha quel problema lì, capito? Ma se mette la batteria da 100 ampere ha voglia che regge, c'è neanche l'avanzo. Non è che ti può allargare molto con queste nuove macchine, no? Quello che vuoi, però è così, ha voglia non ti può allargare molto perché sono di esserci, cioè c'hanno molte macchine, hanno proprio quelle obbligatorie, non ne puoi mettere altre. Ma la 1 c'entra appena voglia che le puoi mettere. Non tutte le macchine. Vabbè, questo non è che c'è la 1, c'è la... Non so mi dico se è Twingo, cosa diavolo è, come va. Però già va. Penso già ci sia. Di solito montano di su tutti 45 ampere, cosa del genere. Sì, vabbè. Però secondo che macchina è, non ci sta proprio, capito, per l'accento. Oh, ma come le balle. Cioè, per forza obbligato a mettere quella. Capito. Ah, comunque ieri sono stato al capitano. Ah, andato sì. No, io guarda, sono andato l'altro giorno a Cicco, sono andato. E c'era una festa di negri, c'era, hai capito? Figurati. C'erano due ragazze, sembravano due mucche. Mi dico una, Pepe fuori, hai detto cazzo, hai detto no, perché la marita, ha detto qua ci vuole un cappuccino, bisogna che li facciamo fare a questo. Mamma mia, roba idroiumile. Sì, tutti belli in coso, ciabatte di marca, maglietta di marca, pantalone di marca. Sono appeso la sala, capito, ha messo le casse che c'aveva, come si chiama, lì alla circolo, e poi ha fatto si è preso il mixer, se è suo, se l'ha piazzato e ha fatto una specie di karaoke con la musica come sottofondo. Lo sai che l'ho controllato io quelle casse, quello faceva il ronzio. Ma è un ragazzo limitatore, dice che caccia che danni da dove difettosa. Ma è bastato poco a capirlo, mi ha attaccato il Canon dietro. È stato un po' poi l'ha trovato a rifare il difetto, senza il Canon. Ha detto, e lascia perdere. Dice che aveva una gascia che non andava, perché una non lo fa, e l'altra lo fa. Ma il cabaretto vale, l'ho scoperto io ieri. E io ho detto io che arrivo. Secondo me avete rifiutato la cassa, che questa specie di alternata strana che c'è sotto, gli ho detto. E lui, non so niente. Dice si arrangia tutto l'angelo, io ho detto, ma arrangiati, io la musica così tu mi fa schifo, solo sentirla. Camuffata con questo effetto eco, gli ho detto, mi si stanno girando i cosi, gli ho detto. Perché la musica l'ho detto, me ne vado, ho detto, fuori, mi prendo il cellulare, mi metto le cuffie e mi ascolto la musica, non mi ce l'ho detto. Vabbè, a parte lei che non sa fare il karaoke, perché ieri c'era un certo Daniele, chi si già sono bravi, chi si già usano in vano karaoke. L'ho scoperto subito, l'ho controllato e cosa. Andare se sono in garanzia, vanno andare e se la fanno cambiare. Sì, io non penso che siano in garanzia con le casse, è come la penso io, non credo proprio. Secondo me conviene, invece l'impianto nuovo come ci serve, che è più tranquillo, quelle casse lì ce le mettere qualche altra parte, casse e tutto il resto, capito? Non è che li puoi punire qui voi, no, chi vi, perché c'è anche il limitatore, non te ne fai un cazzo dalle casse forti, perché devono, cioè, quando sono presenti un battere una, battano. Ehi, vabbè, non so che c'è il limitatore, basta abbassare una, il limitatore non ne usi, non è che devi usare la cosa manettone, no? Intanto... Non si capisce una fanculo quando parlano, già l'avevo fatto, quando vai a chiedere qualche cosa, è dentro quella, è una camera piccola, non è una camera grande. Hai capito? Cosa te ne fai di quelle casse così grosse? Però poi tutti tutte, sono spreccate, insomma. Ma quelle lì sono fatte per quella sala, fanno bene, fanno benissimo. No, non c'è problema. Poi problema è da che non le so far funzionare poi, mi dispiace di mixare di gacca che va cazzo della lemma, ancora cazzo con un cervello, gatto, ma non fai nel risultato di comprarci una cosa come Dio comanda. No, ce l'hai su, piaceria, è che non vuoi spendere, capite? Cosa cazzo, vamo a quando andiamo a fare una ragazza di papà, una cosa come ti cazzo Dio comanda, no, non un trudio. Ho visto quel ragazzo, cioè, ma ho creduto che quella là è difettosa, però la cassa buona, che funzionava bene. Cazzo, quel ragazzo che si sentiva bene avvio, cioè che ho fatto un paio di canzoni. Cazzo, quello è sentirsi bene, l'impianto, funzionare bene. Cazzo, con mixer come si deve, cazzo come Dio comanda. E da cazzo sicuramente va tutta in branch, magari la bruciata è da essa gascia. Io mi interessavo, aveva da bruciata lì. Io non ci dirò, sto piangendo. La verità, quindi. Qualche volta parlo con Giovanna lì alla, da Chicco, lì vicino a casa di Falcone. Bevo una birra con Giovanna e poi rientro a casa. Basta. C'è Teresa, c'è quella l'ex moglie di cosa, di Tattaruga, che la stanno volando lì adesso al bancone. E basta. Ma a me è una persona tranquilla, non ho per le barre, diciamo. L'altro giorno ho visto questi qua, ci hanno fatto una festa per i fatti loro e non ho avuto le barre a nessuno. Io sono stato per i fatti miei, loro per i fatti loro. Poi ci siamo bevuto una bottiglia di cose, di whisky in due, cazzo. Ma non è già sono a semi, cazzo, i negri, domani. Oh Antone, ti devo lasciare, dai, ce la risentiamo che devo fare roba, ciao ciao. Ehi, ciao Antone, ci sentiamo, state bene. A stasera, ciao. Se battende canale 10 qua TMR. Allora senti qua, faccio una cosa allucinante come arriva con questi canale 10 TMR in chiaro. Ciao Antone, sul canale 10 PMR, quindi oltre gli 8 canali normali. Eia, senti. Arriva a spalare, arriva, non ti devo spalare. Ma cos'è un ripetitore? Perché parlano lingue estere? Sono corsi, caro, corsi con ripetitore. Ci sono dei problemi? Con la verticale sto ascoltando io. Non interessare, Antonè, non interessare. Un servizio che stanno facendo in Corsica. No, so se stanno facendo un servizio, cosa ne so. Non l'ho mai sentito io. Sono su 10. Ma con la verticale non ho mai sentito una cosa del genere. Sono su 10 in PMR, quindi figurati. Lo sto dicendo io, l'interlaterale. Ci sono dei mattoni corsicani. Ah, ci sono dei mattoni, non ho sentito sigla io, poi non lo so. Ciao, Cla, ma radioamatore in PMR? Se puoi vedere in coglioni di tutti e due, sono due radioamatori che stanno facendo un servizio particolare in PMR. Non c'è bisogno di dare il nome attivo, non trattare. Beh, in effetti, Antone, se non sono in mano amatoriale, nominativo non lo devo usare. E dov'è questo canale 2PMR? Che non riesco a trovarlo, ma... Canale 10. Canale 10, volevo dire. Oltre gli 8, sarà all'inizio del punto 100. Aspetta, adesso non me lo ricordo, cosa ne so. Bisogna che guardi la tabella e vedi in su. Stavo girando e... Se mi ci ho sentito questo qui, è una specie di balanzata, invece cazzo sono francese, dalla Corsica. Ah, ma poi non possono arrivare qua, non possono mai arrivare. Sono con l'antennino, tu vabbè, c'è l'antenna su, ma qua non esiste. Buonasera a tutti, io sto mangiando. Avete visto che è freddo, io sono con l'eschimo. Cazzo freddo, c'è un caldo fuori. Antone, è una battuta, è il contrario, voglio dire, mi cazzo di auguro. Ah, è un caso vuoto, sono uscito a fare la spesa, mi stavo sciogliendo, sento che è caso felice. Se lo fa Claudio, mi esce della matta, mi esce, sono a fare la piega. Se sono a fare la spesa di alla Cobra, perché ci sono gli sconti, per la carne, adesso dopo, fra un po' devo scendere dall'ospizio, ma Giovanna, prendermi l'acqua e la verdura basta, poi io... Ah, io quindi devo dire perché devo finire per forza entro domani, se no mi metto la multa di 150 euro dalla cartina. La multa? Perché ti metto una multa? Perché non lo sapevo che metto una multa. Se tu lasci su diretto, dire lasci 30, 40 euro, cosa del genere, te tolgono il mese dopo, te ne tolgono 100 e passa euro, come multa, capito? Devi consumare tutti entro il giorno 25 e 26. C'è fortuna. Non sapevo, grazie, io con un garuzzo. Vabbè, dai, fuori c'è caldo, dentro casa si sta da Dio. Io c'ho anche la maglietta, non so di quanto c'è fresco. Vabbè, continuate, sono qua in ascolto. Ventola si sente sotto, perché l'ho messa dentro un, come si chiama quella ventola, un altro fischia, questo invece non fischia. Ci ho messo dentro il sarcofago, quello nero, dell'addosso, in metallo, ed è sotto l'acqua la paracchina dall'altra parte. No, va bene, si sente appena, meglio di prima. Appena si sente, ma niente di che, è normale che si senta una ventola di alimentatore. Non è che possiamo stare che non si senta niente. Va bene, Antonio, lascia così che va bene. Infatti, ci ho piazzato un altro alimentatore, che è quello da 30 ampere e fischia. Ci ho messo quello, cazzo, fischiava come un treno, gli ho detto no. Allora, adesso invece quello lo faccio cambiare, ne prendo un altro e... porto uno e cioè ne prendo uno e porto l'altro, quello mio che fischia, così almeno sono a posto, lo posso già ammazzo, se no così non me lo cambiano e te lo faccio sconto io, in pratica è come se ne avessi comprato due. No, va bene, va bene, ottima radio, ottimo segnale, come sempre, si sente appena la ventolina, ma è normale che si possa sentire, va? Non fa niente. Ah, ok, allora già va bene. Perché la bibanda con l'apparecchio cinese e mi manca la ricetta, invece con lo con Boffeng nulla, dice che è perfetto. c'è una cosa strana, se lei mette la direttiva è tutta un'altra cosa quella parecchia della macchina. Ma che c'hai Antonè, che cazzo di internet? Non è una mantova quella di internet. Sto usando la bibanda, la X300, quella VL1, la verticale, è agganciata alla cosa, alla Bofeng, invece per far funzionare la parete per la macchina, quello, se li metto la bibanda comincia a fare, come se fosse disturbando qualche cosa. Se io metto la direttiva, quella che c'è sotto, che parte da 130, se non ricordo male, a 570, quella funziona bene con la cosa, con quella parete. Anche l'Ugane, c'è l'uccello sopra la mantova, c'è. E si incazza. No, non quella già l'ho vista. Quella per la 27 che antenna è, non è una Mantova 1, cos'è? Mantova 5, cos'è? A turbo è. Mantova turbo quella è. Tu. Non si riconosce da lontano. A turbo ciò, già c'è un anno già. Ma con la viale le devo piazzare. Adesso appena c'ho un po' di tempo, salvo solo due, li metto a vedere che manca e poi gli metto anche glielo compro della stessa misura. Lo faccio io e faccio il foro e gliela piazzo. Tanto che la torre di aria non l'ho trovato, non si sa che altri fine ha fatto. E glieli metto tutti e due, così torna come prima. Visto che è abbastanza pulita l'antenna, non c'ha ruggine, quindi vale a costa. Sì, ma tutta la ridotta, perché è così storta? Perché è agganciata alla staffa della parabola, capito? Con tre gaffette. E adesso per mettere la dritta devo togliere da lì e mettercela dentro al tubicino della parabola. Capito? Adesso va ammazzo il cane. Vabbè, c'è ancora comunque. Grazie, proprio si incazza quando ci sono gli uccelli sopra ai radiali questo qua. E come fa a vederli? Come fa a vederli? No, vorrei dire come fa a sentirli, perché io non l'ho mai sentito in realtà. Lui piglia la mattina a parte, quando sente un uccello sopra, come si chiama? Piglia e parte in terrazza, guarda in alto e comincia a vagliare, si mette su due piedi e fa tutto quel casino. No, già ciò. Non l'ho riconosciuta che sono un'altra. Mi lasciate studiare, sì o no? E vi metto la portante. Ciao, va, Caribe, hai sentito? Già ti lasciamo studiare, non ti preoccupare. Ascolta, un amico mi ha chiesto se ci sono, se conosce qualcuno, se abbiamo uno di quei fucili, c'è presente, o pistola, quella che ha posto di avere i piombini, cioè quelli a fare in plastica, mi ha detto, che si usa per andare nei boschi e capite cosa del genere, a tirarsi uno con l'altro. No, non ne conosco di quella gente, io sono gente fasulla, io conosco quelli che hanno la balla in canna. Grazie. Già gli ho detto che c'è una roba lì, ma che cazzo, capito? Infatti che voleva che conoscere gente che andava a fare quella cosa, a giocare con quelli, sono la stessa cosa, inferno, so, sono in plastica, sono inferno, però sparano i piombi, cosa di plastica, non so il diavolo sia. In pratica si va nelle campagne, hai capito, uno si spara con l'altro, tipo quelle cose della vernice sembrano. Armi per la guerra simulata. Soft air, Antonè. Sì, proprio quello, sì. Ciao Carlo, ben sentito. Proprio quello, soft air. Fabio. Ara. In un quiz su 10 domande ne ho sbagliato una. E in un altro su 10 ne ho sbagliato 3. Bene, sta andando. Bravo, Cattolini, va bene. Dai che ce la fai. Speriamo. Riprendete che vi ascolto, va. Ehi. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Claudio, ciao Marco, Antonello e Natalino. Ciao Marino, sta studiando adesso. Ciao Carlo, ben sentito, saluto di benedetto. Marco, mi sembra che stanno, cioè, sta mangiando così. Marco, mangia di salicciola. Ciao Carlo, buonasera, ben entrato. E Antonio, io ancora con gli orari normali non riesco a mangiare. Mamma la si facevano mangiare tipo agli orari normali, 2, 2:30, anche qualcosa in più. Ma io a quell'ora non ho fame, non vengo da là, non ho fame. Io devo mangiare a metà serata, anzi. Hai capito Antonè? E quindi già finché non finisco rimango l'ascolto, poi si vedrà. Oggi sono abbastanza giù di tutto, giù di tono, giù di morale, giù di, poi c'è questa affa, dovevo uscire a fare commissione, non ho fatto nulla, vabbè. E come tocca lo dove fare, poi gli orari che c'avevi prima, Marco, te l'avevo anche detto, non sono orari da mangiare, capito? Devi mangiare normale, l'una, le due massimo, a pranzo oppure la notte verso le 7:30, 8:00, e non è giusto, hai capito? No, la facevi tu a mezzanotte, poi dove dicevi, ti ha preso la notte in piedi, eccetera, eccetera, a guardarti il televisore, cioè, le cose devi cambiarle, hai capito? Per forza di cose. Quindi, è un orario giusto quello che stai facendo adesso, prima era proprio sballato proprio. Se andavi, tipo sei in qualche, vabbè, quello, gli orari così, di solito c'erano i vigilanti, che devono per forza mangiare non a quell'ora lì, ma un'altra, oppure dormire, per dire, posso dormire alle 10 di notte, devi dormire alle 7:00, 8:00 del mattino, che, a parte non dormi più niente perché non ce la farei manco io a fare una cosa del genere. No, purtroppo loro si devono abituare tra orari e cose del genere, quindi la vita è quella, non ci puoi fare nulla, perché per cose di lavoro è un discorso, ma... Oh, yeah. Avanti Carlo. Antonè, quando sono uscito dal lavoro all'1:30 c'era la macchina sotto il sole e faceva 39 gradi, poi camminando è sceso a 35, ma era un cagio rientrando. Quando sono arrivato a Sassari alle 2 mi stavo sciogliendo, per cui tra mangiarmi qualcosa, me ne sono andato a letto che erano le 3, ho fatto un riposino sino alle 5, capito? Però caldo, adesso già sta tirando un po' d'aria, io sono al terzo piano, c'ho tutto spalancato e sento che va l'arietta, meno male. Rientrando c'è però. Ma un po' è scesa la temperatura, mi sa che adesso abbiamo 31 gradi. Sì, rispetto da domani si abbassa la temperatura, mercoledì piove pure. Esterno che è tutto il giorno all'ombra, 21 gradi, ma questo è scirocco forte, vero? Sì, è scirocco di bescio, tutti due assieme sono. Troppo. Io poi lo soffro molto molto più di voi per questioni ormonali, è una cosa folle. E va bene, riprendete voi, dai. Cioè questioni ormonali, lo scirocco e l'imbecio ti fa dritare. Come Claudio? Hai detto questione ormonale, lo scirocco e l'imbecio ti fa dritare. No, magari. No, è che con quella cosa che avevo avuto praticamente ho queste caldane, soprattutto dopo pranzo oppure a momenti della giornata, mi viene questo caldo in viso, non lo so, è caldo, un caldo da morire, è come se fossi in andropausa, amico, come la menopausa delle donne, capito? Sto soffrendo il caldo come mai l'avevo sofferto negli altri anni, è come se fossi ipertiroideo, invece sono tendente all'ipotiroidismo, è tutto strano Claudio, è una rottura di scatole comunque, proprio a me mi ammazza l'estate, non posso più neanche andare al mare. Caldo è così, ho preso io il caldo, mamma mia, allucinante. Poi lì nell'Anglona il caldo è micidiale, ma soprattutto lì nella bassa valle del Colinas, ho lavorato anche a 40 gradi, quel caldo. termometro, quando era 22. 22 gradi e mezzo, fuori ce ne sono una trentina ancora, sicuramente. Va bene, avanti Antonio, un attimino di bianco per me, arrivo subito. Mi ha salutato, ne avevo 15 a quest'ora, 12-15, infatti era bello solo abitare in quella casa, avessi una bottiglia di vino fresco, come se fosse una cantina in Bahia. Se vai nelle cantine, sai quei locali a livello del coso stradale, c'è un bel rifresco, sta bene. Poi conta che qua noi non usiamo condizionatore, cioè ancora no, poi li dovevano piazzare, non so, per la storia del 110%, poi non si è saputo più niente, sempre che avendo triplicato i costi l'impresa non abbia lasciato perdere e non hanno iniziato a fare nulla, boh. Pazienza, vediamo cosa esce, vai Carlo. Sì, tutto fermo anche da noi, noi avevamo fatto già qualcosina, l'ultima riunione di condominio è saltata per il 110 e quindi l'amministratore non ci ha fatto sapere più niente, anche se pare che il governo voglia bloccare tutto, non voglia rinnovare, per cui le ditte che prima si accollavano tutto adesso sono un pochettino sul chi va là, no? A dire se non ci sono più finanziamenti noi non facciamo più niente, capito? Quindi i progetti già iniziati, quelli li porteranno a termine, quelli che dovranno iniziare c'è un bel punto interrogativo, capito? Così ho sentito, adesso speriamo bene. Sì, io avevo sentito, mi pare, avevo letto più che altro di Draghi che era contrario al 110%, perché praticamente tu immagina se tutta Italia si dovesse fare, rifare tutto il palazzo tra condizionatori, pompe di calore, quello che è, con le ventature, cioè quanto dovrebbe sborsare il governo? E insomma ha manifestato il suo dissenso a proseguire con questa roba qui, poi non so come sia andato in porto, però l'importante è che non blocchino i lavori già avviati a metà, se no poi ce la dobbiamo pagare di tasca, quello che è stato già fatto, il rischio peggiore, ne avevamo già parlato. Riprendi Antonetto. Devono adesso, chi c'è la taglia al gas, quanto sembra deve toglierla, non mi ricordo cosa devo toglierla oppure cambiare, c'è la questione adesso. Quindi chi ci ha messo la taglia al gas è fregato. Capito? Tutta la comunità economica europea, quindi che si è preso la taglia al gas e buttito. Ho sentito anche di quello, ma non ho capito a quale caldaie si riferiscono, capito? Quelle piccoline, io ne ho una piccolina per l'acqua sanitaria, diciamo, e basta. E non credo che quelle vadano tolte, forse quelle che diciamo servono per l'impianto di riscaldamento, per tutto l'appartamento, capito? Credo quelle. Però è tutto da definire. Se ne capisce più niente. Una cosa è certa, che poi alla fine chi la prende dietro siamo sempre noi, piccoli insomma, proprietari, consumatori, che, come ci vogliamo definire. Sempre peggio, sempre peggio. Poi così. Abbiamo voluto abbiamo il gas, hai capito? E non lo siamo, quindi. La trattatura ecologica, a un certo punto ce la vediamo in culo. Capito? Adesso siamo in mezzo alla cacalavera. Dobbiamo tornare come prima a estrarre petrolio, a estrarre gas, perché ce l'abbiamo, e stare come eravamo prima. Tanto la Russia adesso fa poco ci scrive, se chi si scrive i rubinetti allora si viene a mandare il culo. Ho sentito parlare stasera che forse Putin è scampato a un attentato, però non so, è da confermare questa cosa, così mi dicevano, però devo vedere stasera alle notizie cosa dicono, ti dicono che si è fatto operare invece, anche lì tutte notizie frammentarie, non se ne capisce più niente. Sì, non so, adesso c'è anche la questione dei cinesi che vogliono andare a prendersi quell'isola, capito? E gli americani hanno risposto che se poco a poco dovessero andare a rompere le palle, gli americani sono pronti a entrare in guerra contro la Cina. Taiwan. Insomma, dobbiamo morire di guerra per forza, o per Putin, o per la Cina, per carità, sembra che se la stiamo cercando. Poi adesso un'altra epidemia, o comunque questa cosa nuova, il vaiolo delle scimmie, ci manca solo che ci sia un'epidemia anche di quello, ma per carità, ma chi è che ci ha pinacciato a noi? Mi sa che tutto il mondo così, non siamo solo noi purtroppo. Comunque stavo guardando adesso le notizie ANSA, no? sul cellulare, dice 007 Kiev, Putin scampato ad un attentato, e poi parla Mosca, economia russa resiste alle sanzioni, non se ne capisce più. Adesso vediamo cosa dicono stasera, se c'è qualche approfondimento di questa notizia. Questo lo dice il sito dell'ANSA e quindi è abbastanza veritiera come notizia. Sì, anch'io seguo quello. Mannaggia, non ci sono riusciti. Manco la morte lo vuole quello lì. Come il proverbio, zente mala non ne moriri. L'erba cattiva non muore mai, mamma mia. Ma lui dice, poi lui dice che l'economia russa va bene, lo dice lui però. Gli occidentali dicono che è al collasso l'economia russa. Insomma, ogni giornale, lì c'hanno i giornali di regime, ma anche i nostri, grazie a Dio, filoamericani, non si sa che credere. Stavo leggendo anche su questo vaiolo delle scimmie, c'è stato un caso in Toscana, uno nel Lazio, 15 persone sono in isolamento. Non si può più contare, no, Marco. Antonello sempre lì va a parare me. No, io già sono, per adesso sono in stand by per quella cosa lì. Dice che si trasmette non solo con i rapporti sessuali, quindi forse con la saliva, bacia in bacia, non lo so, insomma. Io voglio sapere chi è il primo che si è trombato la scimmia, però. Da dove è partito? Sì, anche proprio così, capito, perché il passaggio da animale a uomo è tutto da verificare, però può darsi che qualcuno affamato, che come dice Antonello non trombava, abbia avuto rapporti con qualche scimmia. Allora, siamo messi bene, cioè, ci manca solo il maiale, cioè, la pezza di suina, e siamo a posto qua, siamo a Dama, tanto ce l'abbiamo in casa la pezza di suina. A Roma è tutto pieno di cinghiali, a Sassari, è uscita di Sassari, gli altri tanti, ci sono due allevamenti di pezza di suina, li hanno sequestrati, quindi a voglia ce l'abbiamo di roba. Vabbè, dai, tiriamoci un po' di morale, cambiamo argomento, dai, se no se pensiamo a guerre, malattie, ci viene ancora di più la depressione. Allora, cosa dite? Sì, sembra una punizione divina davvero, tra le silenze, le cavallette in Sardegna che stanno mangiando tutto, carestie in arrivo, con la mancanza del grano dell'Ucraina che è il granaio d'Europa, vabbè. Insomma, dai, di male in peggio, di male in peggio, il caldo che avanza, adesso ci sarà a fare la crisi idrica perché ci sono i bacini semivuoti, capito, anche da noi in Sardegna, l'acqua che ha fatto non è stata sufficiente per riempirli bene bene, per cui ci manca solo che ci razionino l'acqua, oltre il gas e il carburante, siamo a posto, siamo come in tempo di guerra, come negli anni 37-40. Sì, riprendete che mi chiama mamma un attimo. Ehi, andiamo a dare il pensiero da notte, vedrai. Altro che peste a scimmia. Sì. Quindi Antonella, la frusta l'hai tolta, ho visto. Allora la frusta, la cosa, la canna da pesca ho tolta. Mi sono messo la verticale per la VLU e funziona benissimo. Sento la Corsica come se fosse qui, figurati. Quindi sono a posto. Canna da pesca adesso, vediamo un po' cosa... O la metto da parte. non lo gioco ancora. Qui mi lascio di riserva provvisoria. Perché per piazzare, se piazza quella Giovanna è un casino, non è il genere, dottore è spaventato, si fa una passata di vento di maestrale, me la trovo nel palazzo di fronte. Magari assicurale bene, capito, anche io che sono in auto ogni tanto ci butto l'occhio. Circa 20 giorni fa c'ero salito a vedere, sembra tutto a posto, capito? Però sempre meglio controllare. La tua forse più a portata di mano della mia, io devo proprio salire dal vano ascensore, camminare su un cordolo interno e salire su un tetto e poi saltare su questo piano di calpestio che c'è, arrivare all'antenna. Devo fare anche un piccolo percorso sul tetto, per cui non è che posso ispezionarla tutti i giorni, però diciamo già sembra tutto a posto, meno male. Ah beh, meno male. Avanti che vuole entrare. No, io Antonio avevo premuto per vedere se c'era bianco e invece hai visto la comodità qua, no, Antonio, esci dal gabbiotto e c'è tutto quello spazio lì. Infatti quando abbiamo montata ce la siamo presa con calma, ma abbiamo fatto un bel lavoro, tutta impermeabilizzata in tutte le giunture, compresa la bobina, infatti grazie a Dio, questo è l'ottavo anno. Ha resistito a vento, messa sai bassina come l'abbiamo messa, però c'ha tutti i radiali, tutta integra l'antenna, è funzionante. Perché tu sei un po' cuoma, ma sì, c'ho la testa in fumo, basta, non ne ho più voglia. Angadù tu, Natali. Natali, ma l'esame è orale, è in videoconferenza, è vero? Non lo so. Se bisogna scendere giù al sud sono 60 domande, se no se lo fanno in videoconferenza sono 5, se ne indovini 3 sei promosso. Aspetta, guarda, se hai la possibilità, se ti senti pronto fallo quanto prima in videoconferenza, perché se azzecchi è davvero, addirittura io credo 4 su 5, 3 su 5, è in bijou, è una pacchia mi Natali se riesci a farlo così. Naturalmente dice non devi perdere la connessione durante l'esame, se ti cade la connessione sei bocciato, devi essere sempre visibile, non devi farti vedere che non guardi lateralmente tipo per leggere appunti, capito? Lo so, naturalmente, se ti fanno domande che devi fare i conti li devi fare. Perché nei quiz ci sono delle domande che devi fare i conti con la calcolatrice, se no come fai a sapere il risultato? No, no, non ce l'hai scritto, è orale, orale cosa vuol dire lì? Orale, domanda e risposta, senza nessuna penna, perché assisti tu a quello di Roberto dietro la porta, non devi scrivere niente, mani davanti e faccia verso il video. Ma ci devi fare che conto come ti vai? Guarda, senti, non ti devono fare nessuna domanda, devi fare conti, sono domande orali, orali, non scritte, non c'è niente di scritto, orali. Cosa significa Giovannino? Chi è Peppino? Chi è Antonio? Lo conosci, non lo conosci, punto e basta, domanda e risposta, non devi scrivere niente, mani sulla scrivania, ti ho detto, e faccia il video. Allora è una cazzata, allora manco li faccio questi quiz. Non c'è niente di scritto, ti sto dicendo, non devi scrivere nulla, devi saperlo a memoria. Se ti dicono quanto fa uno più uno devi rispondere due, capito? Che valore c'ha una resistenza e devi rispondere, che valore c'ha un'induttanza e devi rispondere, non devi scrivere niente, tutto a memoria devi sapere. Ehi, non va bene Meda, qual era quella domanda che hanno fatto a Roberto, quella della LC? No, della GC, non della LC, ah GC. E della GC voglio dire, vaffanguarda, mi ero confuso nel confondermi. Gli era spiegato in parole povere, capito? Gli era spiegato in parole povere, senza scrivere niente, senza venuta. E ha detto va bene lo stesso. Sono molto, molto elastici, l'ho fatti comprendermi, capito? Non stanno lì a cincischiare, se si accorgono che hai studiato, problemi non ce n'è. E cappa. Ma lui ti dice la sigla e tu per esempio gli devi dire che agli sì sarebbe, che ne so, il controllo automatico del guadagno, tipo automatic gain control. Roberto di PVC, automatic gain control, no, non abbiamo che ce lo spiega in parole, e gli ha spiegato in parole povere, va benissimo. Allora è una cazzata davvero l'esame, no? Scusa, voi gente, non approfittate voi. È facile rispetto a come era quando l'ho fatto io, è facile, capito? È durato 10 minuti, anzi 8 minuti per esattezza, 8 minuti. Poi ci sono, gli hanno detto, rimanga in linea, non spenga il computer, non si scolleghi, stia fermo, noi ci scolleghiamo, un attimino scolleghiamo. Il video è rimasto, si sono allontanati, si sono riuniti, dopo neanche 3 minuti è apparso il presidente della commissione, perché sono in commissione, sono 6 o 7 persone tutte in fila, non è che ve ne è uno che ti interroga. Ci sono diritti, va bene, lei è promosso, a posto, auguri, arrivederci e buon viaggio, si può scollegare e ti scolleghi. A me mi hanno detto auguri e mi hanno bucciato. Vabbè, gli auguri ci fate in buro quando non è morto, voi sapete. No, quando non è morto ci fate nei condoglianze, non auguri. Ma quindi loro, se volessero crepare qualcuno, basta che facciano cadere la connessione e dicono è caduta la connessione ed è bocciato, così è. No, non ti bocciano se cade la connessione, se è un problema tecnico di connessione non ti bocciano, ti rimandano a... ti dicono quando ti devi collegare di nuovo e ti reinterrogano. Nel frattempo loro vanno avanti con le interrogazioni, capito? E dicono fra un'ora, fra due ore ci ricolleghiamo, stia allerta. Perché ti devono bocciare, anche voi c'hai fatto. No, girava voce su forum vari, che la connessione deve essere stabile, non deve cadere la connessione, magari hanno spiegato male loro, che ne so. Natali, la connessione tua è stabile, sì. C'è la fibra. Pure tu. Tu e io. Loro sanno già tutto. Perché c'è un sistema, Marco, di controllo allucinante. C'è un controllo di sistema allucinante, quindi non è che cioè se ne accorgono loro, c'è un problema di connessione, capito? O se hai cliccato tu per copiare qualcosa. Intanto sono, non lo sai tu dove ti interrogano, su quale fascia ti interrogano. Ti possono fare 5 domande di normative, come ti possono fare 5 domande di elettronica, o 5 domande di tua sorella se è buona o non è buona. Una volta Claudio a un radioamatore gli avevano fatto, di quelli nuovi, gli avevano fatto una domanda strana che dice ma che attinenza c'ha? C'era rimasto un po' così, gli avevano chiesto aspetta cos'era, tipo la lunghezza d'onda del laser rosso, che io sapevo era tipo 635 nanometri o 655, adesso non mi ricordo, ed era una cosa proprio non proprio attinente al programma. Cosa sono domande a trabocchetto per vedere se uno è boh.